12강 어휘 abitare andare ascoltare avere dare essere fare fumare giocare insegnare lavorare mangiare parlare stare studiare telefonare automobile bar campagna, casa, chimica, cinema, colazione, coreano, dentista, dottore, farmacista, insegnante, lago, lavoro, matematica, pranzo, professore, ristorante, scuola, teatro, treno, bene, spesso, troppo. 문형 Che lingua parlano gli italiani? Gli italiani parlano l'italiano. Quante sigarette fuma al giorno? Fumo un pacchetto di sigarette al giorno. A chi telefoni? Telefono alla mamma. Roberto, tu insegni l'italiano? Sì, insegno l'italiano. Lavorano molto i coreani? Sì, lavorano molto. Dove vai? Vado a casa, al cinema, in banca, da Gino, dal dentista. Tu giochi a calcio? No, spesso gioco a tennis. 대화 È giapponese? No, sono coreano. Abita a Busan? No, non abito a Busan. Abito a Seoul. Dove lavora? Lavoro alla Samsung Automobile. Lei lavora alla Fiat? No, io lavoro in una scuola a Milano. Sono insegnante. Che cosa insegna? Insegno matematica. Fuma? No, non fumo. Lavorate molto? Sì, lavoriamo troppo.